cose sue. E allora da domani assemblea alle 8 a Sorso, e lui rimane a Sorso. E lui rimane a Sorso. A Sorso ti posso dire che è meglio andare a San Sebastiano che stare via, perché lì si entra alle 7, si esce alle 2, si entra alle 4 e si esce alle 10 di notte. Quindi peggio per lui, l'ha voluto lui. Beh, oh, asco. E così stava mettendo anche in cattiva luce il lavoro di tutti quanti. Alla fine queste persone, non sembra che se la cerchino col lanternino, scusa, eh. Boh. Poi in periodi del genere è incredibile come la gente non si renda conto che di cambiare registro. Boh, boh. Peggio per lui. Lo so, Salotto. Il problema è, sì, arrivo. Il problema è che era anche con un altro, quindi c'è passato anche l'altro di mezzo, perché io proprio ieri sera l'ho telefonato, ci siamo visti e ne ho preso anche le chiavi di impianto, quindi io per loro io non posso rimetterci né la faccia né il mio posto di lavoro, né la mia esperienza e né il mio ruolo, soprattutto per colpa degli altri. Io non relaziono, non scrivo, ti avviso una, due, tre, quattro, dieci volte a lui l'ho detto, che così non si può lavorare. Purtroppo, ti ripeto, quando ti scavalcano le persone che comandano più di te e loro prendono una decisione, io mi devo fare la parte, perché non posso mettermi contro chi è più in alto di me. Perciò questo è il quanto. E comunque sono andato via al lavoro, che non ci dovevo andare ieri sera, tre ore, dalle 6 alle 9. E stamattina alle 7 sono uscito, sono rientrato l'1:20, stavo rientrando. Vabbè, mi hanno chiamato a pranzo, Salotto, se ci sei mi fa piacere, ci facciamo due chiacchiere dopo. E niente, saluto tutti quelli che sono in ascolto. Ci sentiamo dopo, Salotto. Perfetto, Cla, e anch'io sono giù da mia suocera e stiamo andando anche noi. Ok, molto volentieri dopo allora, dai. Buon tutto, buona carica e salutoni a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Ciao Cla, più tardi. Ciao, saluto, buon pranzo a te famiglia e buona domenica se non ci dovessimo sentire, a più tardi comunque, ciao. Perfetto, ciao Cla. Faccio una cravatta, le metto i tre radialini da un metro, e poi quel cavetto che c'è sulla spirale, quello glielo foro, glielo metto al centro della cravatta e poi mi dici come va l'antenna. L'ho già fatta, l'ho avuta anche io con l'antenna, la cravatta ne ho fatto di modifiche con l'antenna. L'antenna può diventare anche larga banda, non solo, capito? C'è un sistema per farla diventare anche larga banda, quindi non è che ho bisogno di modifiche che mi dicano gli altri. Già te la faccio io la modifica lì, il banco delle radiali in vetro resina, non in alluminio, però sono una gaggata in alluminio, vetro radiali quelli che ho io dell'altra Mantova. Adesso Fabrizio deve fare la cravattina per inserire lì con i tre perni filettati dove si avvitano i radiali, e poi quel cavetto che c'è attaccato a quella spirale si mette il secondo occhiello e si attacca ai radiali, e poi ti faccio vedere come esce quell'antenna. E io ho capito, no, me lo stavo facendo lui stamattina, mi stavo facendo, stavo parlando di uno, mi arrivava 9:10, mi pare, mi ha detto, e mi ce l'ha fatto, e io te lo so, me l'ha già detto Claudio di fare una modifica del genere proprio per farla funzionare meglio. Certo, ci aveva già pensato Claudio, ho detto, quindi adesso come ci abbiamo il tempo e il materiale per farlo, lo facciamo, non ci sono problemi. Dove magistrati spagnoli si chiamisce del muro con l'antenna diretta come la Mantova, facciamo diventare come la Mantova 1, uguale, precisa, identica, capito? Adesso appena si libera Fabrizio al torneo dalla misura mi faccio fare la cravattina in acciaio inossidabile forata, che praticamente è un anello, capito? Un anello che va cravattato a quello già forato e filettato dove vanno attaccati i radiali, e poi vedi come esce, già esce bene così, con quel piano di massa esce ancora meglio, non c'è problema. Piano piano ti ho detto, Mauro, già ti sistemo io a te, non ti preoccupare, non ti sistemo io a te, io sono propenso a toglierla questa Mantova, capito, è nuova nuova, quindi al limite vediamo se modificare quella o darti questa, perché io metto l'altra, devo mettere un altro tipo di antenna che è uscita nuova, molto molto più robusta ancora della Mantova. Devo vedere se andare a prenderla in fiera o se me la faccio spedire, comunque già ne parliamo di persona. Come ti stavo dicendo, stamattina tardi sei rientrato? No, sono entrato alle 10 qualcosa e dopo, cioè soprattutto alle 10 qualcosa l'aveva detto poi più 10 meno 10, una cosa del genere. E dopo sono passato a casa di mamma, che lo voleva vedere, a Francesco, e dopo sono venuto a casa, buone buone, sono andate 10:30, dai. Ho capito. No, io ho fatto tardi, sono arrivato all'una, più dell'una a casa oggi. Sono fermato a Martis, devo avere alcune cose e niente, poi sono rientrato, vai. Capito? Comunque già. Poi domani lunedì mattina io sono a Sorso, dice, domani c'è un casino di cose da fare. E vabbè, comunque ci sentiamo per telefono, dai. Sentiamo per telefono e vediamo un po' se organizzarci qualche cosettina. Quello là passa domani pomeriggio a prendersi quella commissione che era qui. E mi ha detto che? Non mi ha detto cosa ha detto, cosa che mi doveva portare. Ascolta, intanto se ci troviamo, ti do quel microfono che ti stavo dicendo, me lo lascio, dopo quando è pronto, se me lo ha, non c'è problema. Quindi lo lascio a regolare e quando è pronto me lo dà. Quindi effettivamente quando me l'ha capitato l'amico è quello il microfono, capito? Black. Registrato, ma cosa c'è solo da fare le regolazioni? Cosa c'è l'attacco al 48? Solo da regolare o da attaccare lo spinotto? Mi stava dicendo Gianni che in poche parole si sentiva male e quindi vuole regolare un timbre, però con il faccia a vista e con l'isolato, capito? Però preferisco vista che mi fa il bravo tutto il quanto, invece di farlo fare una cagata, lo lascio fare, lo diamo a lui, gli faccio vedere quale vita che mi avete lui da regolare, così come c'ha 2 minuti di tempo me lo regolo, ma lo si trova, lo regola. Va bene, ci vediamo domani, me lo dai e glielo può, c'è problema. Ciao Anto, avanti. Buonasera Claudio, e se non Claudio Mauro, buonasera anche a lui. Buonasera, ben sentito. Non c'è problema, io ti ci vedo Claudio, l'altro ci vedo domani, faccio il straniero quando è, quando è finito, mi cambio, salgo, le lo facciamo così, gli faccio vedere quale vite tra i tubi va a regolare e ti ne andiamo dopo, ma me lo fa, me lo dà, me lo ritorna, non ci sono problemi. No, cioè che di pomeriggio domani o lei a me già mi arrangio io. Vabbè, ti faccio vedere l'abito che mi ha detto lui e dopo me lo fai vedere, non è pronto, me lo dà. Via, positivo, va benissimo, vai a me già mi arrangio io, non ti preoccupare. Nel frattempo magari se ti serve il microfono per la RA 48 io non lo uso, mi te lo prendi e io quale c'ho? C'ho quello, no, quello della Gain non te lo do, quello della Gain non te lo do. Boh, vabbè, qualche microfono ci sarà, insomma, se ti serve un microfono per la RA 48 c'è problemi. Comunque già te lo faccio fare subito, non ti preoccupare. E me Antonio, hai esitendi? Che ore sono? Le tre, ma già iniziato le partite. Certo. È già iniziata. Certo. E perché a casa lì non ti ho più sentito. Sì, sono una telefonata là, adesso sono fatte le 10:30. Ho provato a chiamare ma no, non c'era più nessuno e allora ho spento tutto e mi ho guardato un po' di TV, dai, sono stato un po' con la famigliola, capito? Poi è arrivata mia figlia, 10:30, ci ha messo a parlare e si è fatto tardi. E niente, va bene che va bene, dai, io vi lascio, vado a farmi un riposino, se ci siete ci sentiamo stasera. Ciao Mauro e ciao Antonio. E qualcuno, magari, se c'è qualcuno all'ascolto, buonasera anche a lui, dai. Ci sentiamo più tardi, ma vabbè. Certo, ciao qua, dai. Allora mi sento del tambor pizza. A sentire. Niente, già si sente, non c'è problema. Ci sentiamo più tardi, dai. Mauro, riprendi, non ti riposi tu. E a tutti, sì, voi faccio lo stesso riposino. Per piacere attento di mettermi in moto, di far funzionare la moto della moto, della moto. Me la controllo così, la metto in moto e se la devo usare sono tranquillo. Perché provate non vuole funzionare, quindi se posso la controllo per mettere l'avviamento se parte. Vabbè, di molto che si spetta per appena dopo metto in moto là. E io ci sentiamo passare là. Adesso la moto mi faccio un'oretta di riposino con gli altri. Perché ti sento così cupo? Ci ha attaccato al microfono. E mi ha fregato, non ci ha attaccato troppo là. No, ti sto dicendo, faccio un riposino, dopo provo a mettere molto lo scooterone. Se riesco a far funzionare molto molto l'avviamento. Non ti avvicinare col microfono, Mauro. Puoi parlare anche a un metro. Ti sento lo stesso, ma non c'è problema. Se ti avvicini diventa brutta la modulazione. Va bene, dai, fammi sapere, io già sono a casa e tanto stasera non vado a nessuna parte, meno che voi. Non si cambia idea, ma non credo comunque. Non aggiungi una gana di fare in giro. O darci che scenda, boh, farmi una passeggiata più tardi. Va bene, dai, ciao a tutti, QRT per me, ci sentiamo più tardi, ciao ciao. Ciao Antonio, ciao Mauro. Ok, ci sentiamo. Ciao Antonio, anche per me, QRT. Io faccio un riposino, dopo così ci sentiamo a passare là. Avvicinare. Aspetta, non fa nulla perché qua come si dice, questo è normale, è una cosa che serve un po'. No, tu già va bene, Mauro, che si avvicina al microfono, la voce diventa cupa, capito? Invece quando rimane un pochino distante è un bel bello. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma adesso bene va. Ehi, così devi modulare il casco. Ti metto una stecca. Così quando avvicini la bocca ti ricudi a baba ai labbri. Non ti avvicinare, 30-40 cm vanno bene. Ah, non me lo attaccare l'attico, là. Cosa vuoi? Niente, l'attico. così. Via, via. Va bene, dai, ci sentiamo stasera allora, ok, vabbè. Non avrebbe avuto nessun genere, diciamo, vai. Sia come ricezione, come trasmissione, come punto di riferimento anche per disturbi, eccetera, perché non c'è niente davanti, è un palazzone alto 40 metri, quindi io lavoro con le antenne a livello proprio di muro, con 2 metri di palo, massimo 3 metri, proprio per non avere problemi. E comunque tu stai arrivando magnificamente bene. Antonio Bombolo ti saluta, ha detto che ti ascoltava in mezzo al QRM molto basso, però ti ha sentito. Io sono con circa 50 watt, che sono quelli della radio, non sono molto, molto alto, di solito uso sempre questa potenza. Ok, non ho più sentito Roberto di ad Alghero, ma non sta più trasmettendo. Alberto? Che Alberto o Roberto, boh, non mi ricordo adesso. Ah, Roberto forse? Roberto forse, sì, Roberto. Macchina, non so se sono ascolti, aspetta. Segnato è una gloria per queste è una gloria immensa, soprattutto per le squadre che le chiamano piccole, è ancora di più una gloria. Eh beh, certo che sì. Certo che sì, no, io parlando con questa radio un pochino, fa la scaldare un po' di tempo che non la uso, mamma mia, beh, non so più cosa fare con questa radio, davvero, non so più che fare, beh, questa è già più di un mese spenta praticamente, adesso l'ho attaccata a farla scaldare. Cioè, ogni tanto vanno usate questa radio, sennò io già, sì. Che fai il mio bicchino dell'avione che fa? Cos'è questa? L'Airbex. L'Airbex, questa usa la radio, questa usa perché è bella come la radio. C'è un bel segnale, pure anche la radio è bella. Certo, l'Airbex con l'M95ZG. Funziona bene, funziona benissimo, alla grande, non ci stanno problemi. Certo, infatti l'abbiamo già usando questa, a volte usava il paiette, però piccola, adesso, se non può fare più riso potrebbe indirizzo, poi magari passo all'Intec, però con l'uso di me non lo uso. Certo. No, adesso sono contento, ho già cambiato la batteria, questo è andato benissimo. E guarda gli occhi. Quante belle. Consiglio non poter volarle, non li accettati, allora benissimo la situazione, perché ci sei stato, quindi tanto, quando intervengono quelli non c'è niente da fare. Fortunatamente assieme a chi è intervenuto c'era un carissimo, veramente un carissimo amico che conosco da tantissimi anni in questo settore, che ha sempre cercato di fare il suo lavoro, ma con molta molta serietà. Anche ieri ha cercato di chiudere un po' la situazione in bellezza, ma solo perché c'ero io, questo lo devo dire, altrimenti sarebbe successo veramente un casino nero. E quindi in quell'attimo lì è scattata la scintilla dal mio superiore. Ha telefonato dopo 7-8 telefonate, finalmente è riuscito a rintracciarlo, perché la reperibilità era la sua, non la mia, e quindi gli ha detto chiaro e tondo domani mattina in ufficio a Sorso di iniziare a ritirarsi i bagagli, perché lui rimarrà fuori da quella zona, visto che è incompetente in materia. Altro, mi dispiace, perché è un mio carissimo collega, ci ho vissuto per tantissimi anni assieme, quindi mi dispiace, però quando le persone pensano di poter prendere lo stipendio mettendolo nelle sedie degli altri, questo non va bene. Quello è un lavoro molto molto delicato, che ha a che fare con cose che tu sai benissimo che non devono succedere. Quando si parla di arrestare anche questa posizione di cose del genere, bisogna stare attenti, perché fare dei grossi danno. E poi ripeto, io a me le persone curve, nel momento in cui non facendo loro il lavoro non restare sulla testa degli altri, non c'è problema. Quando invece ce lo devono annunciare gli altri, allora il problema c'è, perché non è assolutamente giusto. E prendi la telefono, la signora che sto prendendo un bicchiere d'acqua e arrivo subito. Che ha pagato, non c'è problema. Ma che è quello che mi hai detto ieri sera? Sì, quello che hai visto seduto a fianco a me, diciamo che ci siamo incrociati. Cioè non è un profano, capito? È una persona che ha vinto il concorso nel 1997, era il numero uno in assoluto, perché è molto preparato, però è un po' di anni che se ne sta fregando. Io, nonostante la mia buona volontà, l'amicizia che abbiamo eccetera, gliel'ho detto un sacco di volte, ma ieri non sono riuscito a tenere gli animi molto, c'era molta tensione, perché il problema era grosso, e sono riuscito fortunatamente, assieme al mio dirigente e all'ingegnere tecnico, di rimettere a posto le cose, ma siamo riusciti in un paio d'ore a fare rientrare tutta la normalità, perché ha fatto una manovra che non doveva fare, quindi quegli impianti non scherzano. Come tu sbagli le manovre tra l'ingresso del paese e il trattamento delle acque, se sbagli le manovre di processo l'acqua va a finire al fiume, e quando va a finire al fiume non è acqua di rubinetto, e quindi lì passata la forestale a ottobre è successo un casino, capito? Un casino nero, tutto ho finito alle 9, perciò ho dovuto fare flussi e controflussi, che Antonio sa di cosa sto parlando, per far rientrare a norma l'impianto, per abbassare tutto il processo, abbassare i livelli, analisi, controanalisi, guarda, un casino ho dovuto fare. Però ci sono riuscito, con l'aiuto naturalmente del tecnico, dell'ingegnere tecnico, e sotto sua responsabilità ho fatto delle manovre che sono riuscito a mettere un po' tutto a norma. Stamattina ho visto che l'impianto stava funzionando benissimo, anche se era ancora molto molto carico, nel senso che la portata era ancora molto alta, e quindi la vasca di ossidazione stava ossigenando, però era abbastanza carica di enzimi, quindi di materiale reflo abbastanza brutto, ma in giro di qualche giorno riesco a farlo riprendere e avere un processo abbastanza buono. Pazienza, questo è il lavoro, questo è a volte ci sono a volte gli sbagli di chi non vuole capire, ma non perché uno sia più bravo dell'altro, perché l'esperienza ci insegna che quando uno sa qualcosa in più è giusto approfittarne e non fregarsene. Invece qualcuno se ne frega, allora lui da domani rimane a casa ed è una cosa veramente molto brutta in questo periodo, perché non credo che si possa perdere un posto di lavoro solo perché non si ascolta il collega, o solo perché hai necessità di fare testa tua, solo perché devi andare al bar a prendere il caffè o eccetera eccetera. Vabbè, finito il discorso. Ma lei è proprio un perla, è un perla, ma io l'ho fatto più volte. La colpa la sua è lui che si è andato a assumere tutte le responsabilità. Perché se io te lo dico più volte, e va bene la russa, e va bene la seconda russa, e la salute, ha detto già come sta già a girare le palle. Se l'ha voluto lui, se l'ha voluto. Se lui non faceva le frontate, molte volte bisogna lavorare, bisogna con la testa essere molto disponibile a fare queste cose. Lo so, e se sai quante volte ho sprecato tempo e detto mille volte, anche da poco l'ho ripreso per delle cose che non andavano bene, ma detto non succede più, tranquillo, ha sbagliato più là, e invece poi ci è ricaduto. Ma ieri è stata proprio una cosa molto molto brutta, e ti giuro che io non avevo nessuna voglia, perché ero a riposo, quindi stavo anche per uscire dalla verità, perché avevo inventato mio fratello a 4 ottobre, se no non ne avevo voglia, quindi mi sono rimasto a casa, e alle 6 sono dovuto andare immediatamente a Lurfi. Poi il giramento di palle, che quando sono arrivato all'ingresso di Nulvi c'è una strada bianca che porta giù all'impianto, e questo pastore mi è venuto addosso, quindi mi si è ancora più alterato il cervello, capito? E quindi sono dovuto andare al lavoro, ho sfasciato la macchina pure, e vabbè, quello non è un problema, perché la colpa non è la mia, però pazienza, una giornata veramente così brutta che non viene bene a dirlo. Allora, pianto, si è rientrato. Sono un po' un coglione, chiaro. Non c'è il cavolo, Bruno, io non riesco a capire questa qua. Potete dirmi, anche se la colpa non è tua, per quello che è successo, la piantano tutto quanto a lui, la piantano. Pure se la colpa non è tua, di chi dà colpa, ancora c'è credo la colpa, perché tu in quel momento non dovevi uscire. E lui ci ha dato tutta la colpa adesso, se l'ha affrontata, l'ha fatta anche. Grande, c'ha 50 anni, quindi io ti ripeto, ribadisco, tu fino a quando a me non mi toccano, per me va bene, però ti ripeto, lui era sotto la mia responsabilità, quindi mi sento un po' anch'io così, ma l'azienda ha già capito qual è, con chi ha a che fare, quindi si assume lì le sue responsabilità e si arrangia. A me l'unica cosa che dispiace è che ho perso un amico di squadra, ho perso una persona che quando la testa la fa funzionare, la sa far funzionare tutto qua, quando invece le gira, allora fa quelle cose che non deve fare. Della serie che si guarda l'impianto, firma il registro e se ne va a casa. Quelle cose non si possono fare, io le ho sempre dette. Prima controllare bene, mettere in sicurezza tutto, poi nessuno ti dice che devi andare via dall'impianto alle 2, però assicurati prima che tutto sia veramente come deve essere, e poi puoi anche andare via. E invece il motto è quello di, soprattutto il sabato e la domenica, di fare le cose molto molto incarico è quello di fare proprio i controlli, però ieri sono venuto a tornare sul posto di lavoro e mi ha girato un balle. Oggi era il mio giro di controllo e invece di fare il giro di controllo ho dovuto continuare a fare manovre per mettere a posto le cose che hanno lasciato incasinate gli altri, quindi è chiaro che non è più un giro di controllo ma avessi un turno di lavoro vero e proprio, tutto qua. Vabbè, pazienza, da tutte le parti, come ha detto Antonio Grodi, ci sono persone che pensano di poter metterla nel sedere degli altri, ma poi vedi come capita, si trovano inchiappettati loro e poi si lamentano che non c'è lavoro, tutto qua. Quindi oggi si contento, hanno vinto Cagliari, tutto a posto, meglio, ma meglio così. Grazie, si è rientrato. Oh, niente di particolare. Poi sì, capita, come stava dicendo Antonio, che qualche passaggio sia un po' più lungo degli altri, perché uno casomai fa un controllo all'altro e ma come stai uscendo, come non stai uscendo, bim bum bam, poi passano i minuti. È chiaro che se poi uno ha qualche cosa da fare, chiaramente non ha avuto l'opportunità di salutare tutto il gruppo, e niente, ma già capitano sempre le occasioni per sentirci, come questa qua, e quindi ci risentiamo adesso. Sono contento perché con questo baracchino poco fa, chiaramente però su altre frequenze, ho fatto l'India, l'ho collegata poco fa, c'era uno che stava facendo dei DX, troppo contento. 28620 mi sembra. Li numera a gruppi di 50 ogni 500, ogni 500 kHz, non te lo so dire. Tanto è vero che io mi ero collegato perché avevo letto in un cluster che c'era questo che era collegato, quindi sono la frequenza l'ho rilevata dal cluster, e allora mi sono proiettato per vedere se riuscivo a sentirlo, e lo sentivo pilo pilo pilo pilo, lui è riuscito a sentire a me, quindi me lo sono messo all'ordine. Anto, canale 27 della banda F. Hai capito, Anto? Ma è andato lì a parlare, gli hai detto che stavi parlando in 10 metri. Cribbio, 28 MHz, già lo sa che cos'è, no? Ti ho chiamato, non mi hai risposto, ho detto, ma non è che Antonio è andato a parlare lì, no? Ti ho detto canale 27 della banda F. Canale 27 della banda F, 28625. Ci mancherebbe altro. No, ma pensavo che è andato lì con lui, infatti non mi risponde il fatto, dico, ma come sono andate a finire? Però ha risposto Salvatore. Salvatore, io non sto bazzicando le passo la parola, ma oggi ho commutato il 40 per andare, perché è tanto posto, già ho magari ascoltarne, poi ne ha preferito andare fare questo, ma ti salva. Se ho guardato il log, 28 600, anche invece di a banda si può dettare tra a più 5, quindi 28 610, cerca invece di multa, dicevo, di ci spostare. Anche con questo baracchino, proprio contento. E prima erroneamente l'avevo appoggiato sopra l'amplificatore e non riuscivo a capire perché non sentivo più niente. Alla tempesta. Cioè, praticamente cosa avevi fatto, ho capito. Come ho acceso l'amplificatore, faceva una bellissima interferenza tutto il baracchino e non si sentiva più niente, diceva, accidentaccio, me lo sono perso questo qua. Ho detto, ma non è che sto facendo qualche fesseria, l'ho sollevato, già come l'ho sollevato in tre dita, ho iniziato a risentirlo, ho detto, c'era il trucco. È vero, perché tu per i 10 metri come me c'hai l'amplificatore, anche io per i 10 metri ce l'ho. Ho ordinato anche l'altro per le altre bande, però ancora non è arrivato perché non era in casa, e quindi sta arrivando da fuori, perciò appena arriva me lo manda. E poi completiamo la serie anche degli HF, insomma, dopo tanti anni, da quando io ho dato il TL922 non ho più avuto amplificatore. Però solo per i 10 metri ce l'ho. Già va bene, già va bene. Avanti, Grod, chi è che ti sta splatterando? Dì la mai che lo crepo. Allora, così sta pilotando qua. Ok, 4 watt pilotato. Molto compresso? Non più di tanto, abbastanza comprensibile, Salvatore. Si è passato da 9.20 a 9.40, quindi penso che il tutto funzioni egregiamente. Ok, prima mettiamo in stand-by. Quindi va bene, si pilota bene. Perché lo devo pilotare con massimo 4 watt. Massimo 4 watt perché l'altro setup, se lo piloto da 5 a 10, ho già provato e non ho la stessa performance che così. E quindi che con questo qua. E quindi preferisco uscire con 4 watt come in questo caso, come in questo momento, e poi eventualmente usare l'amplificatore per farmi sentire più lontano. Ok, quindi già sta camminando bene, sono contento. È un valvolare vecchio dell'Alan, te l'avevo detto. Però ha la particolarità che come tutti i valvolari, quando si scalda ha una modulazione veramente piacevole. Con che cosa? Con quello lì? Sì, con questo qua chiaramente. Va bene. Antonio, sei rientrato? Io voglio la tazza, io. Non ne faccio. No, acqua non ne fa, sassi. Manco vino fa. Magari se facessi un po' di vino avrei messo subito il secchio sotto qualche canale dell'acqua. Almeno non ne avrei comprato. Oh, Claudio, ciao Vanni. Dimmi, sa. Riguardo col PTC, ma è positivo o negativo? Dovresti sentire Antonello, se non hai il numero ti mando un messaggio, perché mi ha detto che devi chiamare una seconda persona che tu conosci, c'è un problema, non so su che cosa. Ciao, ciao, ti ascoltare. Chi è che mi sfugge? Non mi ricordo più. Altro Salvatore, il nostro collega, adesso te lo passano, io ho abbassato il volume perché non mi interessa. Vedo lo Smith che si muove nel 271, ma no, non mi interessa. Mi pare che c'è anche Antonio lì. Cexo, ma non mi interessa. Avanti Salvatore per Vannino, vai. Vannino? Sentito, è ben rientrato. Mi stai copiando? Sì, basta, ma ti ascolto. Ciao. Mi sfugge il nome, stavo controllando un lineare in 144. Dov'è che c'è a 2525? Quello è il caso. Ehi, c'è il tuo amico. Sei andato a vino, però forse che dovrei saltare. Ho detto il tuo amico c'è Antonio, cerca di capire al volo. Tutti amici sono, quando si comportano bene, ricordatelo, tutti sono amici, quando si comportano bene. Ehi, amici, io gli amici li definisco altre persone, Vanni, tu sei un amico di vecchia data, quindi ti reputo un amico. Salvatore è un amico, ci siamo conosciuti e... può essere un amico Antonio, Claudio un amico, Salvo un amico, ma sono tutte persone che ci conosciamo da vecchia data, gli altri per me sono tutti conoscenti. Gli amici bisogna stare molto attenti perché dire amico è una parola molto molto grossa al tempo d'oggi, vero Salvato? E K, quello che io dico a dei colleghi d'ufficio con il quale oramai ci convivo da 27 anni, e quindi porca miseria, un bel po' di tempo uno direbbe, no? In ufficio ci sono rapporti cordiali di lavoro, le amicizie una persona se le cerca in altri posti e ci pensa due volte prima di dire che sono amici. Anche quello è vero, però guarda, io non per voglia rispettare nessuno, ma io i miei amici li conto, ogni volta che rientro a casa, faccio una, due, tre, ci sono tutti, chi la forza, è più. Allora, per dire, come dire, un saluto non si nega a nessuno, è giusto per capire. Non fa così, poi per gli amici ce l'hai dentro casa, e quindi... E gli altri sono, vabbè, là, diciamo, conosci, funziona in questo modo, perché, insomma, diciamo che alla fine funziona in questo modo qui, poi comunque. Poi comunque, se uno si vuole comportare bene, ben venga, è sempre, come dire, almeno la questo così, poi gli altri, non so, non so Claudio. Un attimino. Comunque Salvatore, Vanni, ormai l'amico è diventato un po' le scarpe strette, capito? Se non ce le hai a tuo agio, stanno male, cammini male. Vedi, mi sono dimenticato di Sandro nella fretta, con Sandro posso dire che è un amico perché ci conosciamo dall'infanzia. Non abbiamo mai avuto uno screzio di niente, non abbiamo mai avuto, abbiamo condiviso anche la giovinezza e quindi lo reputo un amico, ma come dice Sandro e tu Vannino, gli amici intanto si contano dentro casa e dopo se iniziano a stare stretti anche quelle poche persone che ti circondano, allora non è vera amicizia, capito? Perché l'amicizia vuole quando una persona capisce solo dallo sguardo, nel senso che ci sono poche parole da dire, capito? Quando uno parla e si capisce solo lo sguardo, vuol dire che c'è una vera amicizia e soprattutto una, come si dice Salvatore, un'intesa, no? Capito? Però quando una persona è talmente tonta e dura e non capisce ciò che le dici e continua imperterrito a non capire, quella non è una persona che può stare sicuramente al mio fianco, questo non c'è ombra di dubbio. Vediamo se è rientrato Antonio. Anto. Comunque te sei dimenticato uno di amico, eh. Cacchio, vedi, perché ne ho amici, Gigi. Ma te c'è uno particolare, capito? Quindi è talmente stretta la nostra amicizia che a volte mi scappa. Perdonami, magari mi ha dimenticato ancora qualcuno, ma comunque a 10 non ci arrivo, I veri amici miei in radio, una decina, ma non molti, Gli altri, ripeto, sono tutti conoscenti. Ti ho sentito poco fa tutta birra nel canale 5, la matta te ne sei da 9.30 stavi arrivando. Da noi lo stai facendo, eh? No, comunque scusando, buonasera a tutti, non lascio nessuno indietro, buonasera a tutti. No, stavo, sai che una volta alla settimana quando capita faccio ascoltare queste radio, durante la settimana non mi sentirai, non entro mai Claudio, tu lo sai, e a volte quando sto così le giro e faccio le prove, capito, e le faccio ascoltare un po', capito Claudio. Ciao Gigi. Ecco il mio Rob che ti ho chiamato, non mi hai risposto, tiro un colpo di microfono d'acqua, sicuramente era al telefono. Gigi, ti ho sentito che scaldavi. Avanti Antonio Brod, è entrato Vannino da Sorso e Gigi Vulcano, come hai sentito, beh, stavamo facendo l'elenco delle amicizie un po' più strette, ecco, Sandro c'è sempre in agguato, vai, riprendi. Ciao Gigi Vulcano, ciao Vannino. No, mi sono spostato di quattro canali perché stavo facendo una prova. Sono immaginati che questo microfono, adesso non so come stia uscendo, però gli infili un cacciavite all'interno del streamer, evidentemente non gli riesco a trovargli una buona massa e non fischia più. E dovrebbe andare anche meglio di come stava andando prima, dai. Allora, infatti pensavo avessi cambiato microfono. E quindi non mi dire che stai parlando con cacciavite dentro il microfono. Non te lo dico perché l'hai detto tu. Col cacciavite dentro il microfono e sta andando e non fischia più, non innesca più. Sì. Gigi, senti gli esperimenti del Grod. È positiva, no? Ma mi è capitato ieri a me, Claudio. Anto, anzi, ciao Anto. Ma che è successo ieri a me? Se mettevo la mano nello spinotto, facevo massa, non innescava. Toglievo la mano e innescava, appoggiavo la mano e detto, no, qua bisogna trovare qualcosa che non va. C'è qualcosa di massa che non va, perché se appoggiavo io la mano allo spinotto del microfono, toccavo il ferro, non innescava più ed era perfetto. Toglievo la mano e innescava, però no, che qualcosa che non anda. Infatti l'ho smontato, l'ho controllato e l'ho messo a posto. È questione a volte di massa, qualcosa del genere, non ce ne accorgiamo, però a volte vuol dire tanto, ecco, vuol dire tanto. Comunque Claudio, tu devi essere sincero, devi essere sincero. Tu c'hai degli amici, che tu li consideri veri amici, però ci sono degli amici, quelli veri a volte, che ti hanno fatto incavolare parecchio, Io non faccio nomi, non faccio nomi grotte, io ne conosco qualcuno che ti ha fatto incavolare a te. Beh, c'è un certo Gigi Vulcano che intanto fa degli scherzi a Claudio, quindi può darsi che ci sia anche lui di mezzo. No, non dice, con me non ti sei mai incavolato tu, con me no, con qualcuno sì. Guarda che gli amici, comunque buonasera a tutti, sono come le mogli, e chi è che non ci litiga, l'importante è capire. Sì, ma Vanni, Claudio con me si è incazzato poche volte, capito? È raramente che si incavola con me, capito? È proprio raro, ma non Claudio, ma neanche gli altri, né Antonio, né Salvatore, né tutti quelli che ci sono a giro a volte, è difficile che ce la prendono. Quando bestizzano con me vuol dire che l'hanno fatta grossa loro, devono bestizzare con me. Quando stavano a casa vite, dopo San Francesco, quando partenza ci sei tu. E poi ci riflette e dico dove sta il problema. Vabbè, comunque, c'è un problema importante che almeno a me già mi faccio niente. Di oggi, però il setup di ieri andava proprio bene. Riprendi tu, Anto, dammi la risposta, poi fai girare a Vannino e poi Sando, così Gigi, ciao carissimo, almeno facciamo un giro tutti. E come non detto, Vanni, vieni pure avanti. Sì, ti ascolto basso comunque, vabbè. Così è Claudio, sempre modificando questo, con questi modichini, prima o poi fai i corsi. vediamo cosa hai combinato questa volta. Poi vieni qua a casa o le cose e lo fai anche queste modifiche. Ai ai, cosa vuoi che ti dica un baracchino? Cosa vuoi che ti dammi fuori? Che ne so. Vediamo se hai guardato anche questi 3 secondi di tempo al cranio. Non sbagliare il filo perché il tutore ce l'ha lontano. Vanni, ma io sto uscendo con un baracchino, adesso. Non aspetti un po', non è che nessuno se la venta, anzi. Vediamo che ti ascolto anche meglio. Hola. Meglio? Aspetta, intanto qualcuno vuol leggo. È Claudio fu. Ehi, sono qua. Però ti devo dire una cosa, Sandro, io video gol e devo vinto baracchino, capito? Prendo colpi dal canale 5. Mi ascoltate, cambio. È positivo, va bene Claudio, va bene che bene. Questo è quello che ti stavo dicendo, il Galaxy. Va bene, c'erano delle regolazioni un po' da fare, dai. Bisogna avere un po' di pazienza, Sandrino, un po' di pazienza sempre, no? Piano piano, fino a quando si trova la giusta cosa, capito? Però non è il microfono suo originale questo, questo è un microfono della Gain Quinto, praticamente per farti capire che Luigi conosce il microfono del mio Alan 48, capito? E ho capito, no, ma su quell'apparato si può adattare qualsiasi microfono perché li accetta tutti. E va bene, ok, Gigi, quello lì è quel trattore là famoso, Sì, ho capito, dai. Me l'ha detto Claudio, no, io lo conosco bene. È un bell'apparato, dai. È un bell'apparato, solo che è molto, molto bisogno di alimentazione. Quello c'ha i suoi cavi sono grossi, guarda, come un lineare. È un lineare di quelli grandi da cavi, io mi sto parlando, no? Un lineare di quelli piccoli, no? Di quelli grossi, capito? C'ha i cavi da... mi pare siano da 6 mm, non voglio sbagliare, è vero Cla? Da 6 sono quei cavi. Sono da 6 mm sì, ma il sistema proprio che hanno fatto in questa radio è allucinante. Me sabato mattina l'ho portata a Sandro, mi sono spaventato, ho detto ma questi cavi cosa sono? I cavi di alimentazione. E la Madonna Gesù Cristo, sono praticamente come i cavi di un lineare, proprio forse anche di più, capito? Va bene, te l'ho fatta sentire, sto prendendo colpi però, sto prendendo colpi al canale 5, quindi devo tornare col mio trattore, con l'altro trattore, Sandro. Quindi per Gigi va bene, per voi va tutti bene, mi avete ascoltato, eccolo qua, lo Sparviero Turbo. Eia, già va bene, e purtroppo quello ha bisogno di alimentazione, quindi per andare bene. L'alimentazione è capire un attimino, magari ha bisogno anche di qualche accorgimento, tutto lì. Per il resto diciamo va bene, già va bene. Ok, dai. Riprendi Gigi. Qualcuno sta parlando? Potrebbe viaggiare anche con pochi watt, c'è una bella radio quella lì, Viaggiando con pochi watt, cavolo, c'è una bella radio quella lì, Va bene anche senza dargli molti watt, gira bene lo stesso. Guarda, io le sto dando adesso esattamente, no, vabbè, lo sto alimentando col PS50, non è che cielo ciele, per carità, però ha dei picchi di modulazione oltre i 100 watt, quindi è così, capito? Lo sto alimentando col PS50 e di portante muta sono esattamente a 25 watt di portante muta con picchi di modulazione a 100, capito? Tutto qua. No, ma volevo farle sentire a Sandro le regolazioni, poi quando vieni qua Sandro lo vediamo assieme, dai, non c'è problema. Ripasso con l'altra radio perché sto prendendo colpi e non sento Vannino, non sento Sandro, non sento nessuno, c'è un battimento zero. Microfono per Antonio Grotte, vai Anto. Piccolo Vico. Anche un break, credo sia Falchetto che mi arriva forte. Fatelo entrare che cambio radio perché sennò non posso continuare, non sento niente. Avanti Falchè, ciao. Sandrino dopo la Maria. Ciao, l'hai sentito? Ciao Falchè, Salvatore. C'è Sandro, Vannino, Gigi Vulcano, Grod, che non ho capito se si è addormentato o se sta sperimentando una delle sue dei suoi travestimenti. E Claudio l'hai appena sentito. Ti prendi Falchè? Oh, sentivo il capo di Rogero. Ciao Sandro, ciao Salvatore, ciao Antonio Grode, ciao zio Claudietto, tutto a Roger, ciao anche a Gigi Vulcano, andate per chi volete. Falchetto, buonasera, ben ascoltato. E a Claudio ha ripreso? Sì, ho ripreso con addirittura con l'altra, perché ho inserito sulla comunicazione del 440, adesso sto andando col 140, non cambia assolutamente niente, siamo sempre lì. Insomma, Maria e Alessandro, ma tu te ne eri accorto, sì, credo di sì, lui è proprio toso, quando siete tutti attaccati, ma è una cosa pazzesca con la radio, la roba di golpe, biglia. Ciao Falchè, solita patacca, ok, lo so, prende colpi, non capire perché, quindi quello lì ha bisogno di una pulita, tutto lì, va bene, comunque, più avanti vediamo un attimino. Vannino. A noi che metto la lavatrice, Luca, mettito la lavatrice, se puoi prendere così colpi, guarda, è meglio che lo metti sotto il tavolo. Ciao Vannino, anche a te che mi sono scordato le cide. Ciao Vannino, ben sentito. Buonasera a tutti. Hai capito Claudio? Se prende così colpi è meglio che lo metti da parte. Vabbè, è un baracchino come gli altri, anche l'ultima generazione, ma è sempre un baracchino. No, non è che prende colpi da tutti, è che io c'ho il mio vicino che purtroppo sicuramente ne prende anche lui, ma quello è proprio micidiale, no? Con questo è come che stia parlando da solo, non sento assolutamente niente, ecco perché a me piace modulare il 27 con questo tipo di radio, proprio per la cosa, la pulizia in ricezione che hanno queste radio, non capisco perché. Bene, dai, chiuso il discorso, te l'ho fatto sentire, siamo lì, ci sono delle regolazioni ben precise da mantenere, da lasciare, e così ho fatto. Sono andato al computer e ho letto delle cose, le caratteristiche, quindi l'ho messo così. Va bene, a chi aspettava? Ciao Falchetto, buonasera, ben entrato. Antonio Grode, ci sei ancora, sì? Come c'era prima? Le parrucche, Claudio, si sta misurando le parrucche. Ah, dici che sta misurando le parrucche questa sera? Con quel microfono, adesso gli è rimasto il microfono smontato da una parte e il cacciavite in mano. Per il cacciavite non c'è problema perché lui sa dove lo deve mettere, il microfono deve usare purtroppo. sai, per cortesia, con le scuse a tutti quanti, mi dici con questo setup un attimino, con questo baracchino, giù come ti sto arrivando, e se mi dici due parole che voglio rendermi conto di una cosa. Ok, Salvatore, il rapporto tuo qui, considera che sto usando un 48, un omologato, mi sta arrivando Santiago di 8 a una radio di 4, comunque comprensibilissimo. Va bene, ok, sono contento, perché è un baracchino, come sta? Sta funzionando bene. Ok, Vanni, a te sono un pochettino salito nelle tue coordinate. Claudio, dopo devo chiedere una cosa. Yeah. A te ti devo dire una cosa. Oh, forse Vanni non c'è. Riprendi Gigi. Yeah. Oh, Claudio, Giovannino ha fatto i biglietti per Borgomanero, li ha fatti ieri notte, capito, per il 7 luglio andare lì alla grande festa che si terrà lì a Novara Borgomanero. E questa, ormai i biglietti sono già fatti e niente, anche quest'anno ci tocca ad andarci. Sai, mi sarebbe piaciuto proprio venire assieme a voi, ma da adesso a luglio io non ti posso dire niente, perché purtroppo il mio lavoro è un lavoro un po', sta diventando un lavoro un po' di attesa, come già è successo ieri, e ho riposo e sono dovuto andare al lavoro ieri sera alle 6, quindi non posso dirti niente, però io ti posso dire che mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare a questo evento, veramente, quindi non lo so, io voglio Giovannino che mi potrei mettere in lista anche per l'ultimo momento, credo che un biglietto insomma si trovi, non lo so, ma io provo a dirti che se sei d'accordo mi metto in lista, poi si vedrà. E voi dite, no, io non ci volevo andare, poi c'è stato costato, non sono mai stato, mi piacerebbe conoscere tutti, vedere tutta questi che parlano a baracchino, questo raduno che fanno. E invece proprio lui poi all'ultimo momento si è tirato indietro, capito? E se non ci volevo andare quest'anno, dico la verità, e però ormai ha fatto, è bello perché Claudio conosci, diciamo, ci sono di tutti i radioamatori da tutta Italia, capito? Ne viene uno ogni anno da Catalogna, dalla Catalogna, come si chiama, ne viene questo Pippo Muratore, a volte si sente quando c'è propagazione questo Pippo Muratore della Catalogna, questo anche quello viene, ma da tutta Italia, la Sicilia, cioè, te l'ho detto, gli anni che sono andato una volta eravamo mancavano tre posti a 400 a sedere nel ristorante dove eravamo, mancavano tre per essere 400 giusti, questo quattro anni fa mi pare. Aspetta, è veramente, veramente eccezionale la cosa, ma ci picchia, veramente. Vabbè, Costanzo è sposato da poco, quindi magari un po', sai, la moglie non era d'accordo, quindi vabbè. Comunque, io e Giovannino, io lista ci sono, se dovesse andare in porto, perché dirtelo adesso per me è molto difficile, non so da come. Sardegna di queste cose. Dici, in Sardegna bisogna farle. Va bene, ti prendi Salvatore. E K. Un discorso vecchio come il cucco. Il problema è che se l'organizzazione in Sardegna, poi casomai qua non verrebbe nessuno. Allora, forse l'anno scorso, se vi ricordate, Vanni, l'anno scorso l'ho organizzato qua in Sardegna io, l'ho organizzato, c'era Claudio, guarda te lo può dire Claudio, non eravamo in molti, eravamo in 50, capito, ci abbiamo fatto una bella giornata, guarda te lo può confermare Claudio, c'era Falchetto, anche Falchetto è venuto, te lo possono confermare loro, ci abbiamo fatto una bella giornata, siamo a metà strada eravamo qua in Sardegna, ed è stata, quest'anno lo volevamo, però quest'anno c'è molta crisi, molta gente a spendere questi soldi, no, per andare, l'anno scorso l'abbiamo fatta noi l'abbiamo fatta l'anno scorso, è stato il primo, c'era Claudio presente, Claudio è stato, quando glielo ho detto è stato subito disponibile in tutto, ha partecipato, te lo può confermare Claudio, dai, questo te lo può confermare Claudio, che l'anno scorso è stata la prima volta che abbiamo fatto qua in Sardegna, eravamo in 50 solo. Vai Claudio. Ah, è stata una cosa eccezionale, ti immagini, se fatto che io avevo un appuntamento a viaggiare alle 11, io sono uscito alle 7 dal lavoro la mattina presto e a quell'ora ho cercato di fare l'impossibile e sono andato direttamente con la macchina da lavoro, figurati, col permesso naturalmente, sono andato a prendere a Antonio Forchetto, siamo partiti e siamo arrivati a viaggiare alle 11, proprio puntualissimo, 11 e qualcosa, e poi da lì siamo andati tutti al ritrovo, che era in questo grandissimo ristorante lì alle porte di Borove. Abbiamo fatto una giornata spaventosa, proprio bellissima, veramente una giornata d'amicizia, con, io conoscevo tantissima gente, però solo il radio. Ho avuto la fortuna di ritrovare anche qualche amico che ero anni, come Giampaolo, che non avevo più incontrato. Non è stata una giornata veramente da ricordare, perché si è parlato di tutto al fuori della radio. C'è un filmino che è una cosa bellissima, ce l'ho scaricato Costanzo, dici. C'ero al computer, mi sono fatto il CD e appunto c'ho scritto primo raduno sardo purtroppo di quello che abbiamo fatto. Veramente una cosa molto molto bella, c'ho la maglietta, c'ho un bel ricordo e soprattutto una bellissima giornata. Va bene, tutto qua. Spero lui che, come ha detto Antonio, si possa riorganizzare a prescindere dalla crisi. Io penso che insomma le 50 euro sono tante, però che poi non le abbiamo spese, no? Spero che riusciamo a rimetterci un po' in carreggiata e rifarla, no? Cercando di inserire anche nuove proposte. Ok, Vannino, riprendi. Comunque questo racconto di Coso, di Claudio, con tutti voi a me. Sì, mi ricordo, anni fa era, diciamo, routine farlo a fine anno, la sessione natalizia. Infatti mi ricordo uno degli ultimi, era stato organizzato da me, da Conte e l'altro, chi era che mi sfugge, ma chi era, eravamo in tre, comunque è stato fatto alla Mattia, là, di fronte alle, a lei, come si chiama, adesso mi sfugge, la partita dove c'è la, diciamo le rimbici un po' più avanti a destra, no, cosa c'è di fronte, mi sfugge a sempre il locale di corso. In cui allora veniva anche Caposanto, anche Coso, c'era Michele, che insomma uno dei ultimi è stato quello di cui invece entrato a vita privata e così via, poi avevo preso la patente in quegli anni lì, insomma subito dopo e insomma mi sono dimenticato di tutti. Vabbè, per modo di dire, ecco, poi non ho partecipato per altre cose, così via. Ma più che altro serve anche per passare una giornata, non perché, insomma, per il resto va più che bene. E così, grazie, 50 euro sono tanti, però cosa vuoi, se vuoi mangiare ci vuole andare a colazione lì, se no per andare in un posto a fare 70, 100 km, per non ridire, poi venire con la fame, con la buccia, insomma, se ne vale la pena, i soldi quando mangi bene sono sempre così bene. E così, vabbè, io stavo anche ascoltando due cose dall'altra parte, adesso ho dovuto abbassare la radio perché sto aspettando che ci sia qualche bel collegamento, quindi ne approfitto. E forse sta rischiando, boh, sento qualche chiamata. E così, vabbè, un orecchio qui, un orecchio là, poi anche capito per me, andare, capito Claudio, come funziona. Ti posso dire che non li abbiamo spesi 50 euro, in modo più assoluto, ne abbiamo speso 40 a testa, però ti posso garantire che il mangiare ci è uscito dagli occhi e ne è avanzato altrettanto per andare a mangiare altre 50 persone. Infatti potevamo tranquillamente rimanere anche la sera e visto che siamo stati a tavolo che erano mi pare le 5 le 6. Perché era veramente una cosa ben organizzata e veramente bella e potevamo tranquillamente rimanere anche a cena, ma il discorso è che molti dovevano rientrare a Cagliari, molti a Vistano e quindi sai, noi vabbè la Sassari da Borre e mezz'ora di macchina, però eravamo ben organizzati, veramente ben organizzati, sia sul mangiare, sulla serietà e le persone che c'erano, veramente una cosa molto molto bella, ben organizzata, il bere limitato, le parole limitate, il rispetto, la voglia veramente di stare in compagnia e di passare una bellissima giornata, quello è importante quando si fanno queste cose, perché quando poi uno diventa un po' stravagante solo perché ha bevuto un bicchiere in più, ma lì non c'è stato, guarda, ti giuro, su 50 persone, una persona che ha scantonato, che ha fatto ci siamo solo, veramente divertiti tantissimo e abbiamo passato una bellissima giornata, dalla mattina sino al tardo pomeriggio, poi si è rientrati tranquillamente senza nessun problema, ti immagini che qualcuno come io di Ciccio Bello è venuto col trattore solo, quindi con la motrice, era una cosa spaventosa, tutta decorata, tutta fatta per farla vedere a tutti e abbiamo fatto le foto, non so se l'hai vista quel trattore che c'è celeste, quello di Muri Ciccio Bello, è una cosa bellissima, se la vedi dentro, bambino, è spaventoso, immaginati che lui mi la scalzo per non rovinare il tappeto, perché se si parla di tappeto, no? È tutto in una mocchetta speciale, tutto rivestito in lino, in pizzo, in cose allucinanti, veramente molto bella quella macchina. E quindi ci siamo divertiti, abbiamo visto, abbiamo cantato, abbiamo fatto, io spero, ripeto, che anche per la città di Sassari, non solo per Luigi che è stato promotore di questa cosa, ma per la città di Sassari che non siamo tanti, ma siamo quelli giusti per poter organizzare queste cose, ci siano veramente delle persone valide e che abbiano la voglia di passare e di trascorrere una giornata come quella che abbiamo trascorso noi. Vai Falchetto, tu vai per Salvatore. Positivo, mi faccio tornare alla festa, abbiamo anche trovato una bella giornata, bellissima giornata di sole, sì, bello, abbiamo passato un'ottima giornata, bella, e quella è una giornata, sia stata per me, per chi ci sa, chi c'era lì, indimenticabile, perché ci siamo veramente divertiti. Detto questo, ho sempre quello il nodo, mannaggia, perché non farla anche anche qua in Sardegna un'altra e altre insomma a seguire, diciamo, là. Va bene, detto questo, rilascio il microfono a Salvatore. Vai Salvatore. Cappa, grazie. Era giusto, ho aspettato un attimo che devo fare alcune cose e prima di allontanarmi dalla radio. Comunque vi volevo salutare, lascio un attimino acceso, però passo in QRX perché non posso parlare adesso, devo fare una cosa urgente. Riprendo tra un pochettino, comunque vi ascolto con piacere. Riprendi Cla? Forse toccava a Sandro di PT. Sandro. Ok, dai, Salvatò, siamo qua, se coincide a più tardi. Claudio, non dimenticare che io ho quella mezza idea quest'anno di includere sul programma che dovremmo mandare in atto come l'anno scorso anche un qualcosa, diciamo, riguardo il CB. Io ne volevo parlare e accennarlo anche. Io sono d'accordo, però bisogna ci sediamo e l'elenco te lo do io, dopodiché lo passo a Luigi e Luigi ci lavora, capito? Oppure lo vediamo io e tu, Luigi, non abbiamo problemi, però è una cosa che deve essere molto, ma molto, bisogna fare molta attenzione, capito, Sandri? Perché come ho già detto prima, ciao Gabriele, come ho già detto prima, il mondo della radio è bella, però quando inizia a essere una giornata di festa, deve essere una giornata di festa, perché seppur la giornata di festa si capovolge e diventa una tragedia, a me non mi va. Io ci sono già passato negli anni 90, quando, come ho detto, bambino, in quegli anni lì si organizzava spesso anche lì da Nino alla pizzeria di Antonelli, ed è successo di tutto di più, quindi avevo detto basta, per me erano chiuse queste baraonde, perché andare ad una festa a mangiare, a divertirsi e poi arrivare alle mani solo perché uno ha un bicchiere di vino in più, queste non sono più feste, queste sono tragedie. Quindi io, ribadendo il fatto che ci sono stato, ho ripreso per la prima volta dopo tantissimi anni proprio con Luigi, e ritengo che la persona più valida da poter organizzare queste cose sia Luigi. Uno, perché conosce le persone che devono esserci, e due, perché è un buon organizzatore, fa le cose fatte in una maniera molto, molto ristretta, e fa sì che non succedano assolutamente baraonde. Quindi su questo, Sandro, non ci piove. Quindi se noi ne possiamo parlare, io, tu, Luigi, anche con il sussidio di Antonio Grobbe, io non ho problemi, però la cosa deve essere molto vista a tavolino, è praticamente un elenco di quelle persone che possono partecipare senza creare problemi agli altri. Giusto, Gigi? Giusto, Cla, poi vabbè, tu hai visto l'anno scorso, Giri, e ci sono state delle cose che qua adesso noi non lo diciamo, però ci sono state delle cose che bisogna stare molto attenti, perché lì devi fare una lista tu, hai capito? E cosa succede? Se queste persone non vengono e non si presentano, e se non hanno anticipato i soldi, tu quei soldi devi mettere in tasca a quello che hai organizzato, ed è un bel casotto, capito? Ci sono tante cose, non è semplice, Sandro, sono delle cose da vedere, perché lì io ne ho invitato, ho fatto un passaparola, sono riuscito a Genera da Urbia, da Budoni, da Inglesia, da Sant'Antioco, da quei paesi in alto di vicino a Muravera, da tutta la Sardegna, della zona di Cagliari, di Oristano, di ogni posto ce n'era di gente, dalla Gallura, da Novio, dalla zona di Pizzino, da ogni posto ce n'era. E il problema è che tu dai, dice sì, io vengo, poi cosa succede? Vai lì al ristorante, come gli abbiamo fatto, e molta gente, abbiamo fatto per 70 persone, 70 persone e 20 non sono venute, E quei servizi gli è andata bene perché ci doveva far pagare quei servizi. E chi doveva pagare? Chi ha organizzato la cosa? Chi l'ha organizzata? L'avevo organizzata io. Io poi c'era Tommaso di Cagliari, Tommaso Civa. E il problema, bisogna, una cosa bisogna studiarla bene a tavolino e fatta come con un certo modo, perché sennò bisogna organizzarla e bisogna mettere una caffarra, tu vuoi venire e poi scelte le persone che devono venire, bisogna mettere un anticipo, se poi lui non si presenta quell'anticipo è perché non si è presentato, non gli va tornato più indietro, se no ci viene a mettere di tasca, capito Sam? Capa Gigino, no, sono pienamente d'accordo, sul tuo discorso non fa una grinza, no, però io quest'anno, oltre diciamo quello che dovremmo fare, che abbiamo già fatto diciamo l'anno scorso, che quest'anno si ripete, volevo includere diciamo la partecipazione sia ad ICP e a radioamatori, però non il discorso di riunirsi, mettere una porta e andare a mangiare, coinvolgere il CP e il radioamatore diciamo in una giornata diciamo di un qualcosa, poi festeggiare a mangiare, devo andare io, venire dopo a mangiare, devo andare io, non mi coinvolgi a me in operazione radio, a mangiare a B. Mattina del tuo genitore. Adesso l'ha visto Claudio, ma anche quando vai a Sandro, che andiamo lì a Borgo Manero, ci siamo, ci salutiamo, ci abbracciamo, ci sono radioamatori, ma radioamatori, c'è gente che c'ha il negozio, c'è Sabatino che c'ha il negozio, c'è Danubio, sono tutti quelli che fanno, che modificano baracchini, che hanno questi negozi, ci sono tutti lì a Borgo Manero, Sandro, quella gente lì c'è tutta, ci sono tutti lì, vanno tutti lì a questa grande festa, non solo Cipino, c'è tutto, radioamatore, di tutto c'è, Sandro, hai capito? E niente, sì, fanno qualcuno, chiacchierano, però la maggior parte, sì, siamo, è come che siamo tutti, che ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, mangiamo, beh, come abbiamo fatto adesso il giorno che siamo andati lì guarda, abbiamo parlato di tutto altro, siamo divertiti, tranne che non abbiamo, Sandro, mi sa che i baracchini proprio di radio, di coso, non ne abbiamo proprio parlato, abbiamo pensato a scherzare, a mangiare e a divertirci, capito? Però poi se qualcuno vuole, giustamente parla quello che vuole, capito? Ma non lo so, sono cose di... si riuniscono, ecco, non per parlare di coso, si potrebbe parlare anche di CD, di radioamatori, quello è giusto, che si siedono due amici, parlano tre, quattro del tavolino, pensano del tavolino e discutono e parlano del più, del meno di queste radio, di queste cose. Anche quello va benissimo, però diciamo è un raduno, diciamo che è un raduno più che altro, capito? È un raduno che ci troviamo tutti lì e ci conosciamo, capito? E ci conosciamo tutti, capito? No, va benissimo, una giornata di questo genere va più che benissimo, va bene, dai. Comunque, vediamo un attimino, Gigi, magari quando capita qualche giorno te ne accenno, poi magari, non lo so, potrebbe essere anche un discorso che non potrebbe andare bene. Tutto lì. Vabbè signori, io vi saluto che ho delle visite. Dai, se coincide a più tardi. Salutoni circolari, riprendi qua. Con la visita che devi essere a digiuno, eh? Ok. Ciao Sandri, buon fine giornata, se vuoi ci possiamo sentire anche dopo, non c'è problema. Non crearti problemi per tutto. Ne parliamo, andiamo un attimino da Gigi, ci sediamo ed è meglio parlare di persona e sapere, conoscere vita e miracoli come ha fatto Gigi. Per il resto da parte mia massima collaborazione, nessun problema. Ok, ti saluto, buon fine domenica, buon tutto e alle prossime. Salvatore, a te il microfono. si è allontanato. Vanni, riprendi. Ciao, ciao. Era Claudio che ti è arrivato da me a proposito di pizzerie, di mangiare, di bere. Leggila, comunque, che è importante. Va bene, dai, per quelli che hanno chiuso. Ci sentiamo il prossimo giorno, naturalmente. Sì, comunque sono belle cose quando si fanno e quando vanno a buon fine, purtroppo è così, non riesci mai a capire per il fatto di chiedere prima un anticipo, è sempre una forma di sicurezza per non rimetterci niente di persona, perché poi effettivamente succede che tutti vanno, insomma, magari la lesione e poi ti trovi con, ma è che non è una cosa simpatica, sempre meglio chiedere il 50% e non si sa mai. È così, va bene, e poi al limite ti metti d'accordo con la proprietà, sempre che capisci, gli dai una parte invece di... Tanto comunque i ristoranti non è che comprano per te, comprano e poi lì, non buttano via niente. Ivani, però io sono d'accordo adesso, tanto ma ci è costato 40 euro perché ci abbiamo fatto fare, abbiamo fatto stampare anche le magliette, per, ognuno aveva il nominativo suo, hai capito? Altri 10 euro per le magliette, e se no sarebbe costato di meno. Però sto dicendo, il problema è che se tu un mese prima versi questi, per esempio fai la metà, 25, 40, 20 euro, ecco 20 euro, questi 20 euro, cosa, questi 20 euro si versano per acconto, alla, dove devi andare. Cosa succede? Che poi quando vai al mese, l'altro mese, invece di pagarne 40 di cose, ne metti 20, capito? Metti altri 20 euro solo. Hai capito? E ti viene anche più leggero, perché ne fai un mese, 20 in questo mese e 20 l'altro quando vai lì al pranzo, capito? No, ma questo è normale, certo è che se devi preparare qualcosa bisogna in anteprima avvisare le persone, magari te ne farai due o tre volte, c'è gente magari che te le dà in una sola volta, ma questo insomma dipende sempre da chi. Però è fattibile anche in questo modo, cioè, intanto io ho fatto un esempio di 50 euro, ma comunque io adesso non so che cosa e dove, perché se poi lo fai un avventurismo quindi ancora meno, ma insomma, bisogna anche capire dove che cosa si vuole realizzare, se vuoi fare magliette, berrettini, se non vuoi fare niente, sarà solo una giornata così di ritrovamento tra amici, e si possono fare tante cose, e che comunque insomma poi alla fine uno decide, si fa un giro e si capisce anche che cosa offre il mercato, nel senso sia i vestiti del ristorante, poi puoi fare proposte, poi chi aderisce, più se ne parla meglio è, e si fa un punto di raccolta per il suo, capito, almeno cioè, una ventina euro giusto per partecipare, sempre lì, anche perché poi rispetto è il giorno in cui è successo questo, chi gli succede un'altra cosa e così via, ma per chi organizza, insomma, a parte tutto il resto, si trova più a pagare qualcosa che non dovuto a causa di qualche, insomma, ed è sempre meglio comunque chiedere prima un po', così uno può venire, io ti faccio le pomme, abbiamo fatto la festa dei 50 anni qui e ti dirò che è stato un bel successo per la fine, ma in partenza chi non ha, sai com'è, poi chi ha diritto, chi non ha diritto, non sai che oggi non c'è più posto, perché insomma poi le ultime volte, diciamo gli ultimi giorni ci sono successe delle cose, quindi insomma c'era a creare posti nuovi, succede anche così, invece di non averli poi ce n'è anche di più. C'era anche questo, siamo stati benissimo da Nababi e insomma è così, chi vuole venire è meglio che lo dica subito, chi non ha intenzione insomma, è meglio che lasci perdere, io dico questo, se gli dico sì e sì, se no pazienza. Vabbè, comunque succede anche di peggio. Claudio, hai letto la Imaola? No, non ho letto niente perché il computer è spento, adesso lo accendo. Adesso lo accendo, fa ok, le prendi. Positivo, va bene, normale, diciamo così. è normalissimo, normalissimo che sia così. Va bene, comunque se si organizza va bene. Va bene che va bene. Riprendi Gigino. Cos'è Vanni? Ha detto per esempio, no? Allora gli amici più stretti noi lo sappiamo, Claudio, può essere Falchetto, mi dai la parola, sì, vengo. Falchetto e so che non si tira indietro. Se mi dice sì, mi dà la parola, come mi ha detto Claudio, come ha detto altri, allora. Però gli altri che conosco di meno, è meglio che quelli devono, i soldi devono anticipare. Perché diciamo anzi, dalla parte di qua, li siamo andati noi dal nord della Sardegna, eravamo tutti a posto, e quelli delle, della zona di Cagliari, di cosa che molti non sono venuti, capito? Che venivano, che sono organizzati, che si sono messi, io ho incaricato altra gente della zona di Cagliari per ritirare i soldi e fare l'elenco della gente che doveva venire, capito Vanni? Invece da quella parte lì sono 20 che non sono venuti, tra Oristano e quella zona, sono in 20, capito il giorno, e 20 è un casotto. Grazie, 20 era questo ristorante era 35 euro a persona. E che come la mettiamo adesso quello del ristorante? Io ho preparato per anche queste altre 20 persone. Qua la roba ce l'ha, la veri, qua la roba c'è. E che cosa devo fare con questa roba adesso? Se non vengono queste 20 persone, io ci vado di sotto. Capito Vanni? E lo discorso è quello. Infatti ho detto io, se la torno a organizzare questa cosa ci vuole un anticipo. La metà, 20 euro quello che è. Di cosa, quelli che vogliono, e poi se non vengono, se si consegnano questi 20 euro rimangono lì in ristorante per quelli che non vengono, capito Vanni? No, che siamo stati bene, perché adesso ti spiego Vanni, c'era il discorso che diceva quello, ma io vengo da Gallura, vengo da lì, e chi ha detto se andiamo non per mangiare in agriturismo, spendere 15 euro non me ne frega niente, io se faccio chilometri, quelli di Inglesia, di cosa, se faccio chilometri, dice, non le guardo, dice le 20 euro, le 30 euro, cioè almeno ci stiamo bene, mangiamo bene, un bel trattamento, che ci trattino bene. Infatti c'era Claudio, c'era Falchetto, tipo, abbiamo benissimo, perché il porcetto era ottimo, la grigliata di pesce non se ne parli, Vanni, in coso di giuro, una cagliata tagnura, catorazzi, gamberoni, tutto pesce, calamari, arrosto, tutto grigliata di pesce, tutto messo, te lo mettiamo avanti questo coso grande in sughero, a mangiare quello che volevi, a prendere di pesce quello che volevi, a grigliata mio Vanni, non era buffonatura, no? Capisco, cioè ti spiego, qui adesso non so se lui la sera ha lavorato, capito, come ristorante, perché poi alla fine loro non buttano comunque niente, comunque, perché se tu mi dici che sono 50, io preparo per 50, spendo 300 e poi perché stanno 280, no, e anche questo, cioè, capisco cosa è, come funziona il ristorante. Il problema è così, come ho detto, l'unica è per non avere grandi problemi, bisogna svogliarsi, bisogna dire io voglio soldi prima, andare una parte, se non viene pazienza, si può sempre dire al ristoratore, se cioè invece di pagare il pieno paghi un 50% e sono quei soldi che servono per tutti i clienti. È così, comunque. Prendersi un impegno e poi fare il figure di non è che sia sai, piacevole. A Claudio c'è un 8 e 11 se ti interessa, 300 euro su internet. Comunque è così, l'unica è anche perché poi è certo che se sono persone che ci vivi giornalmente, insomma, viene male dirti di sì e poi negarsi e dire no. Però gli altri, se non ci sono soldi, bisogna dire così, entro che ne so, magari una settimana prima confermi quelli che hanno pagato. Non sarà sempre così comunque, perché noi lo stesso, vabbè, io sono stato invitato, voglio dire, ma chi ha organizzato si è mosso solo con un'agenzia e quindi l'agenzia un mese prima voleva sapere tutto, un mese prima figurati, cioè ci ha preso anche la larga. È così comunque, c'è un sacco di soldi, poi c'è. Immaginati che cosa sarebbe successo per l'agenzia, dire che eravamo in 100 e poi andare in 30, per capirci, no, eravamo comunque un mare di gente. C'erano due pullman, quindi adesso 250 forse eravamo, una cosa del genere. Perché comunque è così, cioè, no, a parte l'impegno che ti prendi, più la rottura di palle, figurati pure le belle figure che si fanno. Ecco, sì, a me Claudio, chi va a questa pizzeria? Sì o no, dimmi, se no tolgo l'adesione. Quella pizzeria non c'è andato a lungo, aspetta il computer l'ho acceso e sta facendo la scansione. Eppure, non ho messo il posto a mia, ma così. C'è l'aria che c'è alle 9 per la prova e la mi sta preparando. Se non lo so almeno da un giorno prima, io non mi devo organizzare, io già ne abbiamo una noi, voi li portate appresso. Io quando arrivo sono arrivato a Bronto, lo iaia, mi lavoro l'aria c'è la 9, quindi no, non mi posso muovere. Mi ha detto anche mio fratello, non ci sono sceso da lì. Se era quello, ma lo potevi dire, non c'è problema, non è il brame. Non posso perché c'è l'aria che sta lavorando, capito? Se non stava lavorando, aveva riposo, sì. Anche le due domeniche fa sono uscito lo stesso. Ma perché fai tante stronzate nella fretta? Ti ho detto leggi, l'hai messo, tu la leggi, capisci, magando mai, me mi devi avvisare prima, ti ho detto che ci dobbiamo andare adesso, guarda, leggi quello che ti hanno scritto, prima leggi e poi parli. Ah, pensavo che era stasera. Niente, la natura leggi, voleva di un computer turbo, ma di un buio. Uscitivo e K di Rocero. Bene. Dai, datemi due minuti di bianco e già riprendo subito. È positivo, Falchi. Oh, anch'io faccio 5, non 2, 5, però ma ho detto 2 minuti al posto di fatti. Faccio 5 minuti che devo andare così a Caffecolino un attimino e faccio 5 minuti di bianco. Riprendetevela voi, Vanni. Ehi, mi raccomando, che non ti calo dentro. Ah, va bene, va. E un gran, ma che è buono, adesso, a pedale sul computer, gà. Elia, ciao. Ciao Gigi, dai, ci aggiorniamo, non c'è problema. Sì. Io posso andare a Iesia, sicuramente andrò a Iesia, capito? Sabino e Sabunice, cazzo, sì, proprio una cosa impressionante, dura. Ho capito, gà. Ti avverto, ti avviso, ti consiglio, ti accoreggio e tu mi... Ah, vanno o non vanno? Dai, visto, che ti penso? Ci ho finito i bruci denti, ma anche lì adesso mando una mail al segretario e le dico che sono totalmente estraneo ai fatti. Ok, anche perché, come sai, no, non mi interessa più, quindi va bene così. Ringraziando la sua ospitalità, preferisco andare in chiesa, non in pizzeria, adesso glielo scrivo. No, scusate, no, scrivere niente, intanto se hai letto la precedente automatica, l'hai letta quella di prima. Vedi, ce n'è una precedente, adesso mi ricordo perché, aspetta, 30 secondi di pazienza per gli altri, guarda, ce n'era un'altra del 30, quindi quella praticamente per la legge si dice perché c'è scritto anche. Dovranno dietro a tutte le responsabilità confermare di aver diritto, capisci? Forzato, forte, capisci? Quindi se è lasciato stare, non si vede neanche. Aspetta che la sto leggendo, chi è che è rimasto qua a questo canale? Che prendi? Perché tu sei, capito, sei, che ne so, socio effettivo, Allora hai diritto, siccome se non sei un socio effettivo non ne hai diritti perché non l'hai versato quest'anno, quindi da quest'anno tu sei fuori. Licenza presso e c'ho una radio in macchina, non un cicatrice, no? oltre 10 metri, sai che è a disposizione 150-200 watt, picco picco, è come che stai usando la testa, metti un bel microfono e lì fai 10 metri con quella, con una buona antenna, caspita, sono sempre 200 watt, per ridare. Io ho provato, e anche sotto alimentato, con PS50, l'intendivo già in forza, ma lì c'è un assorbimento a 150 watt di 35 ampere buoni, 35 ampere buoni, e il PS50 è un 35 ampere, quindi stava già soffrendo, perciò ho abbassato la potenza, però va molto bene. Sono Vicenni a Guida Croce Marito e a Bizzeria. No, per il padre dopo la mamma, come si diceva prima, si poteva anche organizzare, dico per stasera, ma pensavo che dovessi andare tu, capito? Si poteva anche organizzare. Ma ce l'organizziamo, dai. Stavi conti a Fabrizio e ci organizziamo una sera, ci facciamo una bella mangiatina. Va bene, si sta chiudendo la propagazione, quindi la volazione è al limite. Se riesci a spingere un po', io non so se riesco a coprirla. Perciò ci regala com'era, mi bugi, adesso me lo segno, non sono uscito, non la trovo più la pagina. Galaxy, bene, senti di nuovo, Galaxy. E anche c'è un po' di propagazione, cosa metto a mio caso qua a 50 watt io, di 10 watt, ma di più non posso aumentare. Allora è DX Delta Sinofono 98 Victor Hotel Papa. QSL? Sì, perché ce ne sono due. Poi c'è il V, ma ce ne sono altri. Proprio il tuo non arriva. Tutti quei fatti, c'è uno da 200 fatta, ma non è quello lì, non lo so capire la versione tua. Questo è un VHP, lo strumento è più 25, 50, 100, 150, 200, capito? Max, c'è scritto, e poi c'è il nuovo, questo è bello, è bello anche lo strumento, bellissimo, come la radio, caspita, veramente molto bella, veramente molto bella, ma pesante, pesa anche 240 ed è matura, perché è doppia, capito? Avendo questo amplificatore attaccato sotto, è un bel grossa come radio, pesante. Vabbè, ma $100 anche, 80 euro circa, neanche pure. Si trova 10.000. Allora vabbè, fare un po' la come la fusti, tanto è non lo devo dire. Se ti devo dire, a me sempre i ricchini sono. Vabbè, quella la puoi anche mettere in macchina, non ti dice niente nessuno. Ma per prendere mi metto l'857 in macchina, come la fusti, va meglio, c'ho l'accordatore, ho tutto, e fa la grande. No, beh, su quello non ci piove, che ti piacciono niente, noi abbiamo un altro tipo di cose, capito? Un altro tipo di tipologia, vai, chiamiamola tipologia di trasmissione, perché io mi mettevo il coso in macchina, il 706 MK2G prima, senza neanche accordatore, perché sia l'antenna, avevo due antenne, una in coda, una davanti, sia quella del 2 del 1 non era stazionaria, la NR770, e sia quella della 27 non era stazionaria, quindi operavo la grande con quello, poi l'ho tolto perché mi sembrava una cosa un po' che non andasse bene, e niente, qualche volta ho messo il 140 anch'io, qualche volta il 440 sopra civile, ma abbiamo un altro tipo di cosa, diciamo, dai. Vabbè, comunque, è una bella radio quella, dai. Per l'uso che si fa è una bella radio, tutto qua. Mi stai ascoltando sempre, sì? Eh, propagazione. Se ci fosse un altro canale, Gaghizzo è un brutto, tutti qua vengono a te. Ma ti volevo dire, guarda, c'è questo che ha scritto, vabbè, una di tante recensioni di... perché ha chiesto questo che un ragazzo che ha venduto questo Galaxy DX99V per $40, un bel acquisto, adesso dice ma posso utilizzarlo? E questo l'ha scritto, tutte le radio CB devono essere tipo monogasto, no, come sappiamo noi, mentre ci sono modifiche che possono essere fatte per rendere, insomma, la radio in funzione su frequenze CB, e questo è legale. La cosa migliore è quella di prendere un USB, dovete ottenere più di $40, no, quindi magari dice c'è Roberto, è un radiatore che può provare interesse sull'acquisto. Senti, in America invece dice che anche non essendo tentati di trasmettere su di esso, si tratta di un reato federale fino alla multa di 100, anzi $10,000. Recentemente un certo numero di adulti sono stati arrestati per il tempo di quella radio lì. E in America non si buffoneggia niente. Non si buffoneggia, in America non buffoneggia, no. Ci mancherebbe altro. Già lo so, sì, è così. Lo so. Cosa vuoi che ti dica? Ma se vuoi passo con l'altra radio, così c'ho più watt, ok? No, ti ho detto che ho otto di loro, non so se è qua, non ci ho capito, sono un po' dell'est che arrivano fortissimo. E quindi tu sei al limite, però ogni tanto, insomma, l'hanno sorpresa, ti dà problemi, ascoltate. Comunque è bella radio, ma ripeto, a me sinceramente guarda, con €300 puoi comprare un Icon 706, la prima versione, molto meglio, cioè cerchiamo di regolare un po' così anche, no, qualche volta. Aspetta, Vannicchie, aspetta, lascia scaldare appena questa cosa. Certo, 50 watt e lì. Non è una cosa incredibile. Grazie, la vostra anche micidiale. Sto pensando a quello che ho letto, secondo me mi sono quelli scintilli in chimica, hanno come entrambi. Va bene, non c'è problema, ecco già che ti dica, ma io sto usando il Zodiac 5024 base, col trame più 3, il BV131, per avere un po' più di watt. Mi ascolti meglio così? Sì, no, fai meglio, ma vai meglio. Riesci a, insomma, a farti ascoltare. Andare. C'è un po' di propagazione, la sento anche io qua, vabbè. Pazienza, non c'è problema. Le giornate sono interessanti, domani dovrebbe essere nuvoloso, pioggia e chissà che cosa. Domani speriamo, ma sicuramente c'è anche il blocco di nuovo. Domani pioggia? No, non è andato pioggia domani. Allora, non volevo solo sola là. Ma stai scherzando. Dovrebbe esserci pioggia, sì. E allora, ho organizzato il taglio erba e tutti gli impianti ora domani. E allora, rinviamo. Lasciamo ancora così. Domani ne hai allora, da fare. E io già mi hanno tirati la base. Io me la giù tagliata da 20 anni fa, lei ma lascia la taglia. Sì, vabbè. Domani si vedrà. Ma è organizzato perché... Anzi, mi ha aspettato anche troppo. Perché il tempo non era bello. Adesso ho iniziato queste belle giornate, sai, l'erba inizia a salire, però se domani piove non le porto neanche le cespugliatore a nulla. Lo accettare su. Allora, avanti con te, non è tutto che si vede, distrugge questi processi, non mancano. Perché è così? Mi stavi dicendo dell'811, quindi, ma l'avrei preso, però mi sfasa la linea, io sto cercando, se ti capita, guarda, tu che sei molto più aggiornato di me col computer, se ti capita il 471, anche dalla versione E, anche quella da 25 watt, non mi interessa, però voglio fare la linea 271-471, capito? L'811 l'ho avuto, una bellissima radio, ha gli stessi watt di quelli della Icon, però vorrei fare linea, sto cercando l'altra della Icon, quella in UHF, io ho capito. Se trovo quella, la prendo, anche perché il prezzo più o meno è quanto, 811, 1300 euro, 350 euro, non costano di più, capito? Via. Ci sentiamo tra un po', sono qua in ascolto sul canale 10, ok?